Salva Danaio con Valentina Furlanetto. Buongiorno a tutti da Valentina Furlanetto, bentornati a Salva Danaio. 6 italiani su 10 ricorrono al credito al consumo per fare fronte alle spese. 5 su 10 però temono di non riuscire a ripagare poi i propri debiti. Se ne è parlato 2 giorni fa in un convegno dedicato proprio a questi temi, a dir poco di attualità, visto che per molte persone, complice la recessione, la liquidità è diminuita. E avete mai pensato di chiedere quindi un prestito per l'acquisto di un bene? L'avete mai fatto? Ne parleremo oggi. Oggi quindi a Salva Danaio con gli ospiti che abbiamo invitato e che saranno con voi per contribuire a risolvere i vostri dubbi, domande, segnalazioni che potete fare al numero che conoscete ormai benissimo 800 24 00 24 oppure via sms al 349 238 6666. Doveroso dare uno sguardo prima a ciò che sta accadendo sui mercati finanziari dopo questi giorni di preoccupazione per la crisi della Grecia ma anche di alcuni altri paesi in Europa. Un po' di notizie di tipo finanziario. L'euro innanzitutto sta recuperando terreno dopo le affermazioni del cancelliere tedesco ieri Angela Merkel sul salvataggio di Atene. Ora è quotato a 1,3272 dollari. Petrolio questa settimana in ribasso a causa della crisi greca che genera quindi dubbi sulla possibile impatto di una nuova recessione sulla domanda di oro nero. In Asia il WTI perde 9 centesimi, anche il Brent perde 9 centesimi. E poi avvio pesante per il mercato del debito spagnolo. Lo spread del decennale rispetto al titolo di riferimento tedesco è schizzato a 127 punti base dai 117 segnati in chiusura. Tutti assegnati invece per quanto riguarda l'Italia i 6,5 miliardi complessivi di BTP a 3 e 10 anni messi in asta oggi dal Tesoro. Per quanto riguarda invece più precisamente i mercati, oggi Tokyo è rimasta chiusa per festività e le borse in Europa senza la direzione di Tokyo quindi hanno preso una marcia positiva. Adesso il DAX di Francoforte guadagna lo 0,35%, bene anche Parigi più 0,83%, Londra in rialzo dello 0,61%, a Piazza Affari gli indici sono positivi, il FTSE MIB più 0,25%, il FTSE All Share allo 0,34%. Da segnalare, come dicevamo anche nel nostro GR, anche il rialzo, il forte rialzo della borsa di Atene che ha toccato 5 punti percentuali di rialzo, in particolare grazie alle banche. Sul paniere principale milanese invece sono proprio le banche ad andare peggio. La peggiore sul paniere principale è il Banco Popolare, in questo istante cede lo 0,87%, poi Intesa San Paolo meno 0,7%, UBI Banca meno 0,53%. Non va bene neanche Generali, meno 0,5%. Per quanto riguarda il titolo possiamo dire che Standard & Poor's Equity ha tagliato il target price, quindi forse per questo il titolo sta andando lievemente male. Telecom Italia invece è in grande spolvero, la migliore del listino, più 2,33% nel giorno dell'assemblea di Telecom Italia, seguito questo titolo nei rialzi da Autogrill più 1,83%, bene anche Eni più 1,19%. Archivia il 2009 con risultati positivi nonostante le difficoltà dello scenario energetico e di mercato, lo ha detto l'amministratore delegato dell'Eni Paolo Scaroni aprendo l'assemblea degli azionisti. Enel più 0,44%, in acquisto anche Campari, il titolo è acquistato e sale dello 0,92%, le quotazioni beneficiano del fermento del comparto alimentare in Europa. Mediaset più 1,88%, conferma tra l'altro la società di avere in esame il dossier Gratta e Vinci insieme all'accordata Sisal Post, Fiat più 0,5% e Luxottica invece per finire più 1,47%. Oggi il CDA per l'approvazione dei conti trimestrali, l'amministratore delegato Guerra ha detto poco fa che è stato un buon inizio 2010, solido e promettente, così ha detto l'amministratore delegato di Luxottica. E noi, chiusa questa lunga pagina ai mercati ma doverosa visto l'andamento dei giorni scorsi, torniamo a parlare di credito al consumo. Dal 2003 ad oggi il credito a consumo in Italia è raddoppiato. Negli ultimi due anni vi ha fatto ricorso il 62% degli italiani, 6 su 10 dicevamo. Se ne è parlato proprio al Consumers Forum, dove è stata presentata una ricerca, l'identikit del consumatore di credito. Ma per sapere qualcosa di più vediamo i particolari nella nostra scheda. La crisi ha messo alle strette gli italiani, tanto che negli ultimi due anni oltre il 60% della popolazione è ricorso al credito al consumo per i propri acquisti. E circa il 50% di questi ha addirittura temuto di non poter ripagare i propri debiti. A ricorrere a prestiti sono soprattutto uomini e donne di circa 45 anni, diplomati o laureati, con un nucleo familiare di 3 persone, che lavorano come collaboratori o dipendenti, 68%, con un reddito familiare mensile medio di 2.200 euro. Naturalmente, con affitto o rate del mutuo della casa da pagare. È questa la fotografia del settore del consumatore tipo, secondo l'ultima indagine di Consumers Forum. La richiesta di finanziamenti, che hanno una durata media di circa due anni, avviene direttamente presso il punto vendita, attraverso un prestito personale o mediante l'utilizzo di carte revolving, che proprio nei giorni scorsi sono finite nel mirino della Banca d'Italia. E torniamo al nostro tema principale. Io saluto innanzitutto i nostri ospiti, che sono Tina Napoli, responsabile del settore finanziario di Cittadinanza Attiva. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. E poi Antonio Poletto, direttore generale di Consum.it del gruppo Monte dei Paschi di Siena. Buongiorno. Buongiorno a tutti, Andrea Poletto, rettifico. Ah, ecco, mi avevano scritto Antonio, va bene, Andrea, mi scuso. Allora, per quanto riguarda innanzitutto questo forum che c'è stato un paio di giorni fa, Tina Napoli, si è detto, abbiamo detto prima, che è stato tracciato un po' l'identikit del consumatore di credito, qualcosa lo abbiamo sentito anche nella nostra scheda, ma chi è l'italiano che in qualche maniera si rivolge al credito al consumo? Allora, buongiorno nuovamente. Allora, la ricerca, diciamo, ha fotografato, diciamo, realizzata dalle associazioni di consumatori. Innanzitutto ci tengo a sottolineare, diciamo, è il consumatore che si rivolge comunque alle associazioni dei consumatori, perché noi abbiamo somministrato un questionario comunque a quei consumatori che ci conoscono e che si rivolgono a noi nella tutela comunque diretta di svariati comunque di servizi. E, sicuramente, diciamo, viene fuori l'identikit di un consumatore che fa fatica comunque ad arrivare a fine mese, perché c'è una percentuale anche non da trascurare del 17% di chi ricorre al credito al consumo nei casi comunque di chi arriva a fine mese. Però nel 47% si tratta di persone che hanno un reddito medio. Che hanno comunque un reddito medio, per cui, diciamo, per andare a sottolineare comunque qualche aspetto, diciamo, della ricerca che noi vogliamo, su cui noi comunque vogliamo lavorare e vogliamo portare all'attenzione, che rimane, diciamo, una percentuale a nostro comunque avviso alta di chi si rivolge comunque a questo tipo di strumento per poter sostenere le spese comunque ordinarie, per cui sfatare, diciamo, un po' il mito che il credito al consumo viene utilizzato per beni voltuari, per vacanze, per acquistare comunque beni di consumo, e rimane comunque sicuramente il 53%, ma vogliamo sottolineare questo 17% dell'arrivare a fine mese e l'8% comunque delle spese mediche. Noi vogliamo sottolineare la nostra attenzione, la nostra attività comunque a questo target di chi utilizza questo tipo di strumenti per un bisogno fortissimo, reale, e sottolineare comunque un altro dato. Nell'identikit che è stato tracciato comunque nella vostra scheda emerge comunque il dato che ricorre comunque al credito al consumo chi ha sostiene un costo comunque per l'abitazione, sia esso mutuo comunque affitto, per cui in questa congiuntura economica questo tipo di dato mi sembra comunque estremamente, diciamo, interessante. Interessante, certo. Andrea Poletto, le chiedo di essere breve perché poi andiamo in pausa, ma poi continuiamo a parlarne subito dopo. Consum.it che cos'è innanzitutto? Consum.it è la società di credito al consumo del gruppo Montepaschi, siamo operativi da 11 anni e quindi, come molti gruppi bancari, è stata creata una società specializzata in questo comparto. Quindi vi occupate espressamente di questo e vi ritrovate nelle identikit che abbiamo tracciato? Non molto, io penso che l'identikit è stato tracciato. Allora, se io guardo il nostro portafoglio... Che riprende i dati chiaramente della ricerca. Chiaro, ovviamente. Dipende un po' dal comparto. Allora, credito al consumo vuol dire tante cose. Credito al consumo vuol dire prestiti finalizzati per l'auto piuttosto che per un elettrodomestico, e quindi magari i 2 anni di durata media mi ricordano più un elettrodomestico che non un'auto. Vuol dire prestiti personali, vuol dire carte, vuol dire cessione del quinto. Allora, la durata media del portafoglio, e io sono sostanzialmente, la mia azienda è sostanzialmente in media, è intorno ai tra i 6 e i 7 anni per ogni finanziamento. È molto più bassa, simile ai 2 anni che mi sono segnato della vostra ricerca, se si va nel settore dell'elettronica di consumo, nel settore degli elettrodomestici, del white and brown. L'altro elemento di riflessione è che l'italiano, per fortuna, si è sempre indebitato meno della popolazione di altri paesi. Il credito al consumo rappresenta soltanto in Italia l'esposizione del credito al consumo dell'indebitamento delle famiglie, comprensiva dei mutui, rappresenta soltanto il 60% della ricchezza delle famiglie, contro il 90-95% degli altri paesi dell'area euro. E questo è certamente un dato su cui riflettere. Bentornati a Salvadanaio, oggi parliamo di credito al consumo, quanto ci indebitiamo e per cosa ci indebitiamo. Poco fa il nostro ospite al telefono, Andrea Poletto, direttore generale di Consumite del gruppo Monte dei Paschi di Siena, ci ricordava che fortunatamente ci indebitiamo meno di altre popolazioni, come ad esempio gli americani. Per quanto riguarda invece cosa compriamo quando cerchiamo di avere un finanziamento, ce lo chiede anche Gabriele al 349-238-6666. Io lo giro la domanda a Tina Napoli, responsabile del settore finanziario di Cittadinanza Attiva. Quali sono gli acquisti che si fanno di più a rate? Allora, gli acquisti che si fanno comunque di più a rate, che emergono anche comunque dalla ricerca, sicuramente tutto quello che è beni di consumo, per cui settore, diciamo, in primis il settore comunque dell'elettronica. Diciamo, noi abbiamo anche gestito, diciamo, di servizi, situazioni comunque in cui non c'è stata un'informazione comunque corretta nell'acquisto comunque anche di cellulari. Io anche qui voglio, diciamo, sottolineare quelle che sono dopo le criticità di questo settore, per ragionarne comunque insieme e segnalare l'acquisto a rate di prodotti anche al costo di 80 euro comunque. Questo è, diciamo, un po' l'eccesso che noi come associazioni di consumatori vogliamo in qualche modo contrastare. Per cui sicuramente quel settore, il 21% acquista comunque i mobili, sono, diciamo, un acquisto standard legato dopo all'acquisto della casa o alla ristrutturazione. Il 19% ricorre al credito consumo per viaggi e vacanze, il 17% appunto per arrivare a fine mese, come ho già sottolineato prima, il 14% per eventi particolari della vita. Noi con eventi particolari della vita abbiamo inteso la laurea, la nascita di un bambino e l'acquisto anche comunque di una macchina. E il 9% per l'istruzione e la formazione comunque dei propri figli. E anche qui, diciamo, lo sottolineo, questo dovrebbero essere, diciamo, quelle spese che nell'ordinarietà, diciamo, di una famiglia si sarebbero potute sostenere forse qualche anno fa. L'8% spese mediche, e aggiungo comunque un dato, è una percentuale che sale al 33% nel caso di famiglie di 3 persone con un reddito inferiore comunque a 1000 euro. E tutto il resto comunque è il 6%. La nostra posizione, diciamo, come associazione di consumatori di Cittadinanza Attiva è quella appunto di non assolutamente criminalizzare il ricorso comunque al credito al consumo, perché il ricorso al credito al consumo sano permette comunque alle famiglie comunque di acquistare dei beni, di poter programmare comunque determinate tipo di spese, però, diciamo, molte volte sottolineiamo comunque l'eccesso l'uso comunque eccessivo o le offerte commerciali estremamente accattivanti che inducono comunque i consumatori ad acquisti che sono molte volte o voluttuari o non, o di cui comunque non governano bene, diciamo, il processo, dove l'informazione non è estremamente puntuale. Chiaro. Molto ci aspettiamo dall'entrata in vigore della direttiva europea l'11 giugno, fra un mese e mezzo, ecco. Di questo si è anche parlato, come dicevamo, a un forum un paio di giorni fa. Per noi c'era la nostra Chiara Di Michele, che ha raccolto la voce di Sergio Veroli. Sentiamola. La situazione più importante che caratterizza l'indagine è che oltre la metà degli italiani si indebita con il credito al consumo. L'età media che risulta da questa ricerca è di circa 45 anni, il prestito medio è circa 4.000 euro e poi ci sono dei problemi che riguardano la trasparenza e la consapevolezza dei cittadini che manca. Va bene, manca la trasparenza a livello bancario e finanziario e manca anche la consapevolezza e quindi l'educazione finanziaria da parte dei cittadini. I cittadini hanno poi anche difficoltà nel restituire il denaro? Una parte ha difficoltà, soprattutto in un momento di crisi stanno aumentando un po' le sofferenze. Una parte emerge una preoccupazione, una paura da parte dei cittadini di non poter restituire questi soldi. Però quello che colpisce, poi analizzando anche un po' come avviene il credito al consumo, i soggetti che lo erogano, i contratti che vengono stipulati, è che vi è una enorme asimmetria di potere fra banche finanziarie e cittadini, una asimmetria di informazioni a disposizione di banche finanziarie e dei cittadini, e i prezzi sono troppo alti, spesso non sono giustificati i prezzi così alti del debito e spesso alcune forme di credito avvengono nella totale inconsapevolezza del cittadino, ad esempio le carte revolving che vengono date se uno va a acquistare un bene, una macchina o un frigorifero eccetera, stipula un contratto di prestito con una finanziaria e non si accorge che sta firmando pure per una carta revolving. E questo era Sergio Veroli, presidente del Consumers Forum, al microfono di Chiara Di Michele, che ha raccolto questa voce un paio di giorni fa appunto al forum sul credito al consumo. Andrea Poletto, direttore generale di Consumit del gruppo Monte dei Paschi di Siena. Parliamo allora un attimo di queste revolving. Anche il governatore della Banca d'Italia pochi giorni fa ha detto che metteranno dei paletti, che ci sarà un po' più di vigilanza per quanto riguarda le carte di credito a rimborso rateale. Assolutamente sì. Le carte revolving rappresentano sul totale dello stock di credito al consumo in Italia, che di circa, secondo Assofin, 115 miliardi, rappresentano soltanto il 7%. Quindi anche qui, rispetto ad altri paesi che sulla carta revolving hanno spinto molto, come i paesi anglosassoni, l'Italia, 10 anni fa non c'erano quasi carte revolving in Italia. Allora, io devo dire che gli operatori ovviamente sul mercato non sono tutti uguali, ma si sta demonizzando comunque in questo periodo qualcosa che in parte è vero e in parte no, nel senso che se io prendo per esempio la mia azienda, noi ci siamo fatti validare tutti i contratti, compresi i contratti di prestiti personali e credito finalizzato, dove c'era la possibilità anche di avere una carta revolving. È tutto molto chiaro, scritto molto chiaro, visto e vidimato anche dell'Associazione dei Consumatori, e diciamo gli operatori sani, la carta revolving, se il cliente non la vuole, la non taglia la e la butta nel cestino, per cui sostanzialmente in questo business si sono proposti anche questi prodotti, c'era il famoso bicontratto di cui ha parlato anche il governatore Draghi, di contratti dove si fa un finanziamento e poi si cerca di fidelizzare il cliente, quindi il cliente tipico bancario che ha un conto corrente non ha bisogno di essere fidelizzato perché in qualche modo lo è già, il cliente che una società di credito al consumo intercetta finanziandogli un frigorifero o una lavatrice, dato che il mondo della finanza è anche un mondo in concorrenza, è un cliente che dopo 12 mesi, dopo 24 mesi, dopo 48 mesi, quando ha finito di pagare il proprio finanziamento, la carta era un modo per dare uno strumento di fidelizzazione a quel cliente laddove il cliente voglia utilizzarla. Ci sono carte revolving come quelle che per esempio Consumit fa con Unicoop Firenze, attraverso la società Integra, che hanno dal 9 all'11% di tasso di interesse, se uno lo vuole, carte che arrivano fino al 20%. Diamo un attimo spazio anche agli ascoltatori e dopo torniamo ovviamente a parlare anche con lei e anche con l'altra ospite, ma c'è Paolo da Roma che è in attesa da un po' e ha chiamato all'800 24 0024, volevo dargli voce. Paolo? Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, senta, due domande se possibile. Una, io mi trovo dopo 5 anni a aver attivato un prestito per l'acquisto di un'auto, ma premetto che il prestito sono andato io alla ricerca e ho spostato io il prezzo, insomma ho fatto un po' di ricerca di mercato, stando attento un po' a TanEgg, guardando un po' intorno, e io ora ho questo finanziamento davvero buono, 5,50 TanEgg, mi ritrovo che però ora, dovendo fare dei lavori di ristrutturazione per un importo anche maggiore, i costi sono anche, come dire, aumentati, il tasso applicato anche più alto, pur considerando che ci troviamo in un periodo di tassi BCE, tassi ufficiali molto più bassi, quindi mi viene sempre da pensare ai margini che le società vogliono aumentare in questa fase di crisi per tutti noi. E poi per la carta revolving io, diciamo, confermo che un po', se posso testimoniare, è che mi ero trovato nella possibilità di prendere un condizionatore per casa a rate, di sottoscrivere anche a un tasso zero, però spulciando mi sono accorto che dovevo prendere una carta revolving. C'era modo di escludere dalla richiesta di finanziamento la carta revolving, però se io non fossi stato attento, come sono un po' così pignolo, però non tutti possono essere come me, mi rendo conto, però se non avessi spulciato la cosa me la sarei ritrovata. Quindi insomma, testimonianza un po', le finanziarie cercano di indurti a parti di fronte a una carta e poi il dubbio rimane a te. Grazie. Andrea Poletto, ha sentito? Allora, il cliente è un cliente saggio e assennato, perché i clienti devono essere consapevoli quando si indebitano, questo è importante, e non può essere il legislatore, inondando la clientela di centinaia di pagine, come per esempio è successo nel caso della MIFID per gli investimenti, che tutela alla fine il cliente. Bisogna essere responsabili nel dare credito, bisogna essere consapevoli quando lo si prende. Dopodiché, ripeto, il tema delle carte revolving, il consumatore ha letto, se voleva poteva anche dire ne ho già una, non mi serve, ma se l'avesse ricevuta non era obbligato, uno non gli costava nulla, poi se avesse voluto utilizzarla avrebbe dovuto attivarla, se non voleva attivarla non la usava. Dopodiché l'associazione dei consumatori dicono sì, ma è una forma di marketing. Sì, è una forma di marketing, nessuna banca è una società di beneficenza, le banche sono un volano per lo sviluppo del paese. Ma voi comunque la carta revolving la mandate anche se non è richiesta? Questa in realtà è una prassi che il governatore della Banca d'Italia no, ha un po' bacchettato. No, noi ovviamente a valle della comunicazione del governatore, tutte queste forme cosiddette di bicontratto, dove firmando un prestito, firmando un finalizzato, il cliente aveva la possibilità di ricevere una carta revolving, sono ovviamente state bloccate. Dopodiché tutte queste forme erano contratti assolutamente leciti, visti e vidimati dall'associazione dei consumatori, dove non c'era nessun costo per il cliente che non avesse voluto attivare la carta. E quindi, come dire, la trasparenza era assoluta. Poi è ovvio che il livello anche di educazione finanziaria, come dice lei, in Italia forse è leggermente più basso che in altri paesi, e quindi c'è uno sforzo che l'offerta, cioè le banche, le banche, le finanziarie, insieme all'associazione dei consumatori e al governo devono fare per aumentare il livello di educazione finanziaria delle famiglie. Bentornati a Salvadanaio, oggi parliamo di credito al consumo, 6 italiani su 10 si rivolgono a questa forma di finanziamento per fare fronte alle diverse spese che devono sostenere durante l'anno, 5 su 10 secondo un recente rapporto pubblicato proprio un paio di giorni fa. Fanno fatica o dubitano di poter poi ripagare i loro debiti. In materia di trasparenza, sentiamo quanto ha detto, sempre a margine della presentazione di questa indagine, Vittorio Tusini Cottafavi, sostituto capo Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali della Banca d'Italia, sempre al microfono di Chiara Di Michele. Siamo alla vigilia di un intervento molto importante, che è quello che qualcuno stamattina ha richiamato, delle deleghe che sono nella comunitaria del 2008, che intanto recepiscono la direttiva sul credito al consumo nell'ordinamento italiano, e quindi questo già è un passo avanti sicuramente importante, ma in più hanno altri filoni di riforma che sono la rivisitazione delle norme primarie in materia di trasparenza, cioè chiede il legislatore delegante che tutte le norme che oggi sono sparse nell'ordinamento, che sono i decreti Bersani, gli ultimi provvedimenti del governo attuale sulla commissione di massimo scoperto, siano portate e coordinate all'interno del testo unico bancario, che ad esse siano applicati quindi quell'enforcement proprio del testo unico bancario, e chiede anche una sistemazione di quelli che sono i vari istituti di trasparenza per applicare dei poteri sanzionatori e inibitori a 360 gradi su tutti questi strumenti. Quindi è una riforma a livello primario molto importante. Avete sentito, quindi ne stiamo parlando anche con alcuni ospiti che sono con noi per rispondere alle vostre domande, anche a Cecilia da Pistoia che ci ha chiamato all'800 24 0024. Buongiorno Cecilia. Buongiorno. Dica. Allora, io ho avuto un'esperienza 5 anni fa, dopo un licenziamento mi occorreva uno stipendio appunto mancato di 1.500 euro. Mi sono rivolta alla mia banca, la banca non mi ha ritenuto cliente solvibile, mi ha suggerito questa carta, una carta di credito al consumo. Mi è stato spiegato che io dovevo rendere una rata di 80 euro al mese. Alla domanda in quanto tempo avrei estinto il debito, mi ha detto no, ma te paghi 80 euro al mese e puoi consumare fino a 1.500 euro. Io lì avevo necessità e bisogno, sono stata sicuramente disattenta, ho preso questa carta revolver, che poi ho soprannominato revolver. Revolver era soprannome simpatico, revolverata, sì. Perché avevo due bambini e stavano studiando ancora, eccetera. Quindi ho preso il mio stipendio, il mese dopo io sono ritornata a lavorare e ho cominciato a pagare questi 80 euro al mese, tenendo conto che alla fine, grosso modo calcolato, chissà anche quello che ti pare di interesse, avrei dovuto finire di pagare in circa 3-4 anni al massimo. Mi è arrivata una telefonata, me lo ricordo bene, per ricaricare nuovamente la carta, io non ne avevo più bisogno né necessità, ma non l'ho strappata e non l'ho resa, errore. E a questa telefonata è seguito un altro ricarica di 1.500 euro. Quindi alla fine 2.500 euro. Non me ne sono accorta. Poi quando me ne sono accorta da un estratto conto, io ho detto guarda, ma mi è arrivato questo estratto conto dove c'erano 1.500 euro, io ho detto guarda, me l'ho già consumate. No, se lei l'ha fatta richiesta, no, non li voglio. Ah, va bene, non c'è problemi, gliele possiamo ritogliere. Nel togliermele non me ne hanno solte praticamente 2.000, quindi 500 euro in più di interessi. Quindi per riassumere, ne ha consumati 2.500? No, io ne ho consumati 1.500. 1.500? Me ne hanno dati 1.500 in più, me ne hanno riprese 2.000, insomma sono 500 stata, insomma. Esatto, a trafficare su e giù per questa cosa, niente, va avanti la storia. A quel punto dico va bene, questi soldi non me li levate, me li metto sul conto, via via li ho consumati e ho continuato a rendere questi 80 euro. Adesso non ce l'ha più la carta assolutamente revolving. No, come è andata a finire? Va bene. Praticamente io ho pagato per chiudere questa storia 3.168 euro, giusto, sto andando ora in banca a prendere l'assegno per darglielo. Che banca, oltre Cecilia? Alle 80 euro al mese che ho dato in 5 anni. Che banca? Preferisce non dirlo. Lo posso anche dire, io la richiesta l'ho fatta alla Toscana. Però ecco, vorrei dire questo a tutte le donne, che come ero dietro una separazione, c'è tanta sofferenza quando si va a chiedere e ci si vergogna, di non vergognarsi. Va bene Cecilia, grazie. Io la ringrazio per la sua testimonianza. Tina Napoli. Allora, racconto di Cecilia, diciamo al netto dell'esperienza personale che comprendiamo, ma insomma non è tema di Salvadanaio né di oggi né di solito, comunque è un'esperienza insomma un po' faticosa, mi pare di capire, un tentativo di arginare la banca non riuscito. Sì, certo, l'unica cosa che voglio sottolineare è che comunque il momento in cui un cittadino diciamo si trova in una difficoltà economica, si trova comunque in una situazione psicologica comunque difficile, e questo dobbiamo comunque tenerne conto. E dopo voglio dire praticamente però bisogna un attimo frenare la banca e probabilmente essere più decisi nel c'è la necessità comunque su due fronti per affrontare in maniera sistematica comunque il tema. A investire associazioni di consumatori, istituzioni e imprese responsabili sul tema dell'educazione finanziaria. Esatto, quello che diceva anche Andrea Poletto. Sì. Anche l'amico del Monte dei Paschi, insieme alle associazioni di consumatori, insieme con il gruppo Monte dei Paschi, di cui fa parte anche Consumit, nel quadro di un laboratorio che abbiamo permanente ormai da 4 anni, abbiamo elaborato per esempio una guida sul credito al consumo scritta in maniera estremamente accessibile sia per un consumatore scolarizzato o meno, sia esperto comunque o meno della materia. Ecco, questo è un comportamento sicuramente responsabile e dobbiamo farlo necessariamente insieme per far sì che dopo il termine trasparenza non divenga dopo conformità. Andrea Poletto, mi sembra che siamo tutti d'accordo. Condivido assolutamente. Sulla necessità di informarsi. E ci crediamo molto in questo laboratorio di Consumer Lab a cui partecipo spesso anch'io, oltre appunto alla collega. Noi abbiamo fatto una scelta forte, la direttiva europea, la trasparenza, queste cose noi abbiamo già recepito sostanzialmente la direttiva europea nella nostra prassi operativa come Consumit, perché io lo dico sempre, il miglior cliente è il cliente che io non vado a sovraindebitare e a cui offro un prodotto che è un prodotto coerente con quanto il cliente può ripagare, deve essere un prodotto trasparente. Nella fattispecie la signora di prima probabilmente se aveva bisogno di 1.500 euro, 2.000 euro, non era la carta revolving da dargli, ha sbagliato la banca, probabilmente era meglio dargli un prestito personale che pagava a rate con un tasso sicuramente più basso. La carta così demonizzata serve per pagamenti estemporanei, perché uno può andare all'estero e con una carta può comprare delle cose che magari paga a rate, può servire perché uno in quel momento specifico ha bisogno di una lavatrice perché si è rotta e vuole pagarla a rate, senza bisogno tutte le volte di rifare di nuovo la trafila e farsi di nuovo rivalutare dalla sua banca o da una finanziaria. Non era forse lo strumento giusto e non è il modo giusto per fideizzare? In quel caso è stata, forse la signora era in una situazione ovviamente anche un po' particolare, sì, nella propria vita privata, e la banca ha offerto forse un prodotto che non era quello più adeguato in quel momento. Grazie, io ringrazio tutti voi per essere stati all'ascolto e anche i nostri ospiti, Tina Napoli, responsabile del settore finanziario di Cittadinanza Attiva, Andrea Poletto, direttore generale di Consumit del gruppo Monte dei Paschi di Siena, Gaia Romani per Salvadanaio in redazione, Alessandro Longoni invece per Soldi e Dintorni, in regia Carmelo Lauricella. Grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto, a domani.